La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 127. Il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. L'articolo 127 riguarda l'impugnazione delle leggi regionali e statali dinanzi alla Corte Costituzionale. Mi spiego. Attualmente la competenza legislativa spetta sia allo Stato sia alle Regioni, ciascuna nei propri ambiti di competenza. È stato l'articolo 117, quell'articolo molto lungo con tutto l'elenco delle materie, a identificare le competenze dello Stato e le competenze della Regione. Ovviamente può capitare che esista un contenzioso. Il compito di dirimere questi conflitti spetta alla Corte Costituzionale. Infatti, come recita l'articolo 127, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Al secondo comma ugualmente si prevede che la regione, quando ritenga che una legge dello Stato o di altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni. Il modello di controllo è pienamente paritario e in ciò si modifica quello che invece veniva previsto originariamente, perché il testo del 1948 prevedeva che le leggi regionali venissero emanate con un controllo preventivo dello Stato, cioè lo Stato doveva apporre un visto di registrazione alla legge regionale, per cui la legge regionale non era un atto completamente autonomo. Ora invece, col nuovo testo dell'articolo 127, siamo in piena condizione di parità, nel senso che la legge, sia dello Stato sia della Regione, entrano direttamente in vigore. I controlli sono solo successivi. La Corte Costituzionale, dopo questa modifica, ha assunto sempre più un ruolo arbitrale nelle competenze fra Stato e Regioni, perché molto spesso sia lo Stato sia le Regioni impugnano le leggi dell'altro ente e solo la Corte Costituzionale può chiarire esattamente a chi spetta una competenza o l'altra. Infatti in questi ultimi 10 anni abbiamo potuto assistere a un notevole incremento del contenzioso costituzionale proprio fra Stato e Regioni, in maniera da chiarire esattamente a chi spetti una competenza o piuttosto l'altra.